Epilogo. Il magistrato tiene le mani dietro la schiena. È vestito con cura e decoro. Sembra venire da un altro tempo. Vorrei chiedergli in quale secolo è rimasta impigliata la sua reincarnazione. I carabinieri che ci scortano in sala mensa sono cortesi. Non hanno inflessioni dialettali. Sembrano davvero felici di togliermi le manette quando il magistrato dà loro l'ordine. Sono molto diversi dai primi sbirri che mi portarono in caserma 2 mesi fa. Allora presi qualche colpo basso, sberle, nulla di terribile, ricordo molti insulti. Non avevo fatto alcuna resistenza quando mi avevano raccolto in stato confusionale nel parcheggio della fabbrica. In caserma volevano a tutti i costi che li ringraziassi per non avermi lasciato al linciaggio dei miei concittadini. «Non vi ho chiesto nulla, potevate lasciarmi a quegli idioti», continuavo a dire, senza alzare il tono della voce. E giù botte. Stamattina in cella mi hanno svegliato presto. «Oggi vai in gita», mi ha detto il mio cane da guardia. «È un posto che conosci bene. Vedrai che bei ricordi. Fosse per me, quelli come te, già te l'ho detto». «Sì, me lo dice ogni giorno, più volte al giorno. Io non lo degno di uno sguardo. Perdo la pazienza solo quando minaccia di fare del male al mio criceto». La guardia del turno della mattina sembra un carlino gigantesco, ha la faccia schiacciata e una brutta cadenza veneta che il tempo non riesce a dissolvere. Non mi piace uscire dalla mia cella e lasciare da solo il mio criceto. Non avevo mai avuto animali prima, nemmeno da bambino ne avevo desiderati. Non ero stato un moccioso che puntava i piedi per avere un cane cocker o un gatto persiano. Un'ammiratrice, dopo uno scambio di lettere durato qualche mese, aveva ritenuto opportuno regalarmi un criceto. La sua scrittura era carente, sia nella forma che nella sostanza, sconnessa. Non erano ben chiare le ragioni per le quali mi riteneva attraente. «Sono bruttino, in foto vengo pure peggio». Eppure, accecata, faceva riferimento alle mie foto sui giornali, dettagli estetici sul mio viso che ignoravo. Nelle lettere non entrava mai nello specifico del mio crimine, come non volesse ferirmi. Non mi chiedeva conto del passato né di propositi futuri. Avevo risposto solo a lei per rassicurarla. Mi sarei preso cura della bestiola. Sono centinaia le lettere che ricevo ogni settimana. Donne che vogliono fidanzarsi con me, coglioni che desiderano imitarmi, che mi raccontano del loro disagio sul posto di lavoro, delle angherie quotidiane, del mobbing strisciante. Rompessero le palle ai sindacati, fondassero un partito, comprassero dell'esplosivo o anche solo delle armi da taglio. Io non voglio saperne nulla, devo gestire i miei mostri personali. Anche in rete si sono formati gruppi che glorificano la mia persona e il mio gesto. La polizia postale ne chiude uno e ne sorgono 10. Temono l'effetto emulazione. Io non ambisco a essere avanguardia di nulla. Non sono nato leader, sono nato schiavo. Non desidero essere omaggiato. Però il criceto mi aveva fatto piacere. Quando me lo ero trovato sul dorso della mano, poi su, per l'avambraccio, fino al collo e dietro la nuca, mi ero reso conto che non assomigliava affatto a un topo. Lui mi ascolta quando parlo e ha delle reazioni che solo io comprendo. Tremori del ventre, accelerazioni dei movimenti, oppure immobilità assoluta quando il mio narrare richiede la massima concentrazione. Anche la temperatura del suo corpicino cambia in modo repentino, dandomi brividi piacevoli. È molto paziente con me. Io non devo essere buono con lui, o comunque non è difficile esserlo. È una creatura piacevole, che non chiede quasi nulla. Io sento una presenza nello stanzone della mensa. È qualcosa che mi dà elettricità. Non mi opprime. Forse è il fantasma di una mia vittima che mi ha già perdonato. Non dico nulla. Il mio sguardo vaga. La stanza è stata ridipinta di un giallino insopportabile. In alcune zone credo di intuire l'ombra dei buchi dei proiettili sotto l'intonaco. Ma forse è solo un'impressione. Rivedere la sala mensa, con i tavoli apparecchiati e le lavagne con i piatti del giorno descritti nella solita calligrafia, mi dà un senso di azzeramento. Il mio gesto estremo non ha spento questo inferno. Tutto è continuato, il mostro si è leccato le ferite e la produzione è ripartita. Non deve essere stato difficile sostituire le 6 donne e i 5 uomini rimasti sul campo. Posso immaginare mazzi di fiori nelle postazioni sulle linee di assemblaggio e sulle scrivanie, Molti dei feriti sono tornati al lavoro quasi immediatamente, altri lo faranno nei prossimi mesi. Il mio cervello prende ad affollarsi di ricordi, ma la mia bocca rimane sigillata. È il magistrato che deve aprire le danze, è lui che vuole dare un senso a ciò che senso non ha. È lui che deve dire cosa vuole da me, da un reo confesso che deve scontare 99 anni di carcere. Il magistrato è un uomo che non sa darsi per vinto. Sta prendendo la mia storia a livello troppo personale. Sento il rumore del silenzio interrotto da un breve disturbo di frequenza. I mesi dell'isolamento in cella mi hanno reso ipersensibile. Se alzo gli occhi e guardo il soffitto, mi sintonizzo col chiacchiericcio di un tempo lontano. Quelle parole che mi parevano insopportabili oggi sarebbero carezze. I commenti del lunedì sulle partite del campionato o le volate dei motociclisti ragazzini. Le mamme che raccontano le prodezze o i capricci della prole. Le malattie, il disagio delle vite normali. Come staranno crescendo i figli delle donne che ho ammazzato? Boh. Non sono questi pensieri concreti a confondermi. È un sentire indefinibile a gonfiarmi gli occhi di lacrime che non usciranno. Cresceranno forse più forti quei bambini e, se nella vita falliranno, avranno una buona scusa. Ricordo bene gli insulti fuori dalla caserma, poi in tribunale, gli occhi sgranati, quei movimenti netti delle braccia, come nei film muti. Qualcuno mi chiese se mi rendessi conto di quello che avevo fatto. Varie persone, in vari momenti, mi fecero questa domanda. Strana domanda. Il magistrato ha le orecchie troppo a punta per essere davvero intelligente. Il suo debutto non è molto originale. Le capita di ripensare a quel giorno? Sì, vorrei trattenere tutto di quella giornata. Ho ben presente tutti i dettagli. No, il ricordo si sfalda. Non sono più nemmeno così sicuro che sia successo davvero. Il mio cervello ha rimosso tutto. Scelga la risposta che le fa più comodo. È la mia linea. Per nulla difensiva. Beffarda. Lo è sempre stata. Zigzagare è la parola d'ordine. Le parole sono docili, fatte per essere dominate a piacimento. Al processo li ho fatti impazzire. Due avvocati difensori hanno buttato la spugna. Non sono un genio, non sono furbo, non sono forte. Ho scelto di essere un pupazzo. Quando non hai nulla da perdere diventi invincibile. Riesci anche a divertirti. In realtà continuava a passarmi davanti la scena. Passa come in un rullo che a ogni riavvolgimento cambia leggermente i dettagli. Il mio cervello si fissa su una ragazza carina che mi maledice e poi mi chiede pietà, mi insulta e mi blandisce. Non sa che condotta tenere per avere salva la vita. Poi la vedo crollare su un fianco, rumore di ceramiche e vetro in frantumi. Ogni giro un regalo diverso, cambia il personaggio. Un impiegato del commerciale Italia riuscì a colpirmi con il pugno a martello mentre cadeva, scivolando sul pavimento bagnato di vari liquidi. Nessuna panoramica, tutto è punto di vista. La sala quel giorno era un mare in tempesta crivellato da grandine di piombo fuso. Ma il minimo comune denominatore di ogni video mentale è sempre quello. Mi rivedo, seduto al mio solito tavolo, chino sul piatto del giorno, a blaterare di cose inutili o a stare in silenzio. Il magistrato non sa rassegnarsi alla mia versione dei fatti. Nell'ala femminile del carcere, nel cuore della notte si sentono urla disperate, improvvise. Debolezza umana. Sono le madri assassine. Hanno rimosso il loro crimine. Poi improvvisamente si rendono conto di quello che hanno fatto. A volte è un sogno, altre volte è la coscienza senza difesa dal risveglio. Dovrei avere pietà di loro? Dovrei avere pietà di qualcuno? Sono il più infelice degli esseri umani. Sono del 1967, come Kurt Cobain. Lei è un assassino. Volevo solo essere ricordato come il teorico dello stragismo aziendale. I miei genitori hanno dovuto lasciare il paese. A 80 anni. Mio padre, dopo pochi mesi, è morto. I traumi non fanno venire tumori, però li velocizzano. Non crede? Gli è sempre piaciuta la montagna. Alleghe è un bel posto per passare gli ultimi mesi di vita. Sono belli i cimiteri di questi paesini. Non credo che lei sia davvero così. Lei non aveva precedenti, solo qualche segnalazione legata all'uso di droga, nemmeno spaccio. E non ha mai posseduto armi. Non è stato difficile procurarmela. Chi vende eroina può vendere di tutto. È nei verbali. Cammino a passi piccolissimi lungo il perimetro dello stanzone. Il magistrato mi segue con lo sguardo. Fisso il pavimento scheggiato. Vorrei trovare una macchia di sangue, una traccia organica qualsiasi. Un oggetto che mi riporti ai miei anni aziendali. Magari un blocchetto verde, di quelli che usavamo per prenotare il pranzo del giorno successivo. In 10 passi arrivo alla colonna. Mi giro verso il magistrato. «E Frank? Come ha fatto a cavarsela?» «È solo una curiosità». «Ancora con questo Frank? Perché insiste?» «Lo sa. Imparò immediatamente a guidare il muletto. Non c'era nemmeno bisogno di spiegargli i comandi. Sembrava non avesse mai fatto altro. Era sveglio il maledetto. Un giorno sabotò la centralina di collaudo di una linea. Non può immaginarsi il casino. D'altra parte lei è uno statale. Certe cose non le può comprendere. Io non capisco nulla di tecnologia e non ho mai avuto il coraggio di guidare un muletto. Da fuori sembra facile. È un lavoro umile, ignorato da gente importante come lei. Scommetto che non si è mai messo nei panni di uno che guida uno di quegli affari gialli. Ha costruito una menzogna enorme, inutile, senza nessuna apparente ragione, nulla che potesse portarle vantaggi, sconti di pena. Lei doveva fare lo scrittore. Ha una fantasia sorprendente. Non mi ha fatto un complimento. Credo che gli scrittori siano persone scialbe, pavide. Scrivono quello che non hanno la forza di vivere. Vivono altre vite artificiali sulla carta. Li disprezzo. Ma non esiste nessun Frank, lei lo sa. In questa azienda non ha mai lavorato nessuno che potesse corrispondere alla sua descrizione. Abbiamo interrogato tutti, visionato i documenti dell'ufficio risorse umane. I capi reparto hanno dichiarato che da anni non hanno giovani operai in addestramento. Negli ultimi tempi non si chiamavano più capi reparto, ma preposti. Non è un inglesismo, ma trovo sia un termine sgradevole. Io non capisco l'esigenza di cambiare nome alle cose senza cambiare nulla della sostanza. Basta, non ne posso più di lei. Il padre ha corrotto tutti, forse ha corrotto anche lei. Se cerca di guadagnarsi l'infermità mentale con l'amico immaginario, il suo avvocato le ha già detto che sta sbagliando tutto. Amico? Non ho mai avuto nessun amico in questo posto, mai. Dai finestroni la luce livida regrada in fretta verso il buio. Il magistrato si accende una sigaretta prima di abbandonarsi su una sedia. È il segno di resa che i due carabinieri sulla porta attendevano. Mi vengono incontro e mi rimettono le manette. Sembrano più tristi, delusi. Lo sguardo di Frank lo incrocio per un attimo appena. È lì, come sempre, da sempre, nella zona nella quale compilavamo il libretto della prenotazione. Commentavamo sempre i piatti del giorno dopo con un certo disgusto. Mi sorride. Io resto serio, ma sono sereno. Non c'è riconoscenza. Ho fatto solo il mio dovere. Ho fatto quello che dovevo fare. Sono un operaio. Faccio le operazioni che mi richiedono nei tempi previsti.